Ho visto belle donne, spesso da lontano, ognuno ha il proprio modo di tirarsele vicino, ma ho visto da vicino che c'era da vedere, e ho visto che l'amore cambia il modo di guardare. Film di guerra e quelli dell'orrore, e si vedeva bene che non erano invenzione. Ho visto mari calmi e mari tempestosi, e ho visto in sala parto la potenza delle cose. È tutto scritto ed è qui dentro, e viene tutto via con me. Tu che cosa vedi? Tu che cosa vedi? C'è ancora un orizzonte lì con te. Di tutta la vita passata, questo è il momento. Di tutta la vita davanti, questo è il momento. Vivere un atto di fede, mica un complimento. Questo è il mio atto di fede, questo è il tuo momento. Ho visto tanti Giuda, tutti in buona fede, e ho visto cani e porci fatturare a chi gli crede. Ho visto la bellezza che ti spacca il cuore, e occhi come il mare nel momento del piacere. È tutto scritto ed è qui dentro, e viene tutto via con me. Tu che cosa vedi? Tu che cosa vedi? C'è ancora un orizzonte lì con te. Di tutta la vita passata, questo è il momento. Di tutta la vita davanti, questo è il momento. Vivere è un atto di fede, mica un complimento. Questo è il mio atto di fede, questo è il tuo momento. E come la vedi, la vedi, ma è tutto in come la vedi. C'è chi vuol solo passare ad un altro rimpianto. Ho visto tanti pezzi per un mosaico solo, e certi giorni ho visto che c'è niente da capire. Ho visto solo per come io sapevo, e c'era luce anche nelle notti più cattive. È tutto scritto ed è qui dentro, e viene tutto via con me. Tu che cosa vedi? Tu che cosa vedi? C'è ancora un orizzonte lì con te. Di fede, mica un complimento. Questo è il mio atto di fede, questo è il tuo momento. E come la vedi, la vedi, ma è tutto in come la vedi. C'è chi vuol solo passare ad un altro rimpianto. Vivere è un atto di fede, nello sbattimento. Questo è il mio atto di fede, questo è un giuramento.